Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Di Cristina Carpinelli. Un viaggio durato 2 anni, dal Pakistan all'Italia a piedi. Non è la storia romantica di un esploratore postmoderno, o forse a modo suo è anche questo. In realtà la storia che raccontiamo è quella di Zaki e delle migliaia di ragazzini partiti un giorno da casa, senza spesso sapere cosa sarebbe successo alla loro vita. Io in Pakistan arrivo di Iran, che dopo di Turchia, Turchia dopo di Bulgaria, Bulgaria di Serbia, Serbia di Croazia. Dopo di Slovenia, anche Slovenia di Italia. Hai fatto tutto a piedi? Sì, tutto a piedi. Quanto tempo ci hai messo? 2 anni. Tu ti senti con i tuoi genitori? Hai li chiami? Poco. Anche mia madre e padre. Chiamare di poco anche la mia città, no, ce l'hai di internet. E ti manca anche il tuo paese, ci pensi? No. Sì, il mio paese è sempre il problema di Taliban. Sì, il problema di Taliban. I minori non accompagnati che arrivano in Italia sono in media 5.000 l'anno. Arrivano da soli perché lungo la strada hanno perso i genitori, oppure per scelta della famiglia che individua in quel figlio una possibilità di riscatto. Sprovvisti spesso della protezione di un adulto, questi adolescenti, ma anche bambini, finiscono per vivere situazioni devastanti. Molti non arrivano ad avere la tutela prevista dalla legge in Europa, sono persi. In Italia si parla di una media di 4.000 bambini di cui non si sa più nulla dopo lo sbarco. In molti casi invece sono proprio loro, una volta arrivati in Italia, a chiedere aiuto presentandosi alla polizia. Una volta scattata la segnalazione si entra in un sistema di tutela. I progetti in Italia sono tanti e si sta passando dalla gigantesca comunità d'accoglienza per minori soli a progetti di condivisione di appartamenti come quello in cui siamo oggi. In questo appartamento alla periferia di Milano, in un gigantesco casermone popolare, vivono 6 ragazzini. Ci sono poche cose e tenute bene in ordine. Sono ragazzi che hanno vissuto la fame e la fatica e apprezzano ogni singola cosa. Alcuni coltivano sogni bellissimi. Allora, mi chiamo Hendrit, vengo dal Kosovo, ho 18 anni. Sto lavorando nella pizzeria. E niente, prima anche ho studiato tutto, ho fatto i corsi e tutto. Cosa pensi di fare adesso qui? Qual è il tuo sogno? E io suono anche la pianola così. E il mio sogno, come dire, è provare con la pianola, che posso fare. Diventare un musicista? Sì, diventare un musicista. Ma ce l'hai qui la pianola? Sì. Mi fai sentire? Sì. La casa è dunque un punto di partenza, ma anche un ritrovo, dove potersi confrontare e crescere, imparando anche a stare nelle difficoltà e nella complessità di una città come Milano. Questa è in fondo la parte meno raccontata della storia dei minori non accompagnati, perché il viaggio è di solito la parte che affascina di più nella narrazione di questo fenomeno. Ma in realtà la parte più importante è quella successiva, quando i servizi e le varie cooperative predisposte si fanno carico di questi ragazzini. Mi chiamo Mona Ilie e sono la coordinatrice del servizio Costruire Radici per il Futuro e servizio di accoglienza Siproimi. Il nostro servizio ha mette a disposizione 5 appartamenti nei quali accogliamo 18 ragazzi minori stranieri non accompagnati. Abbiamo 2 tipi di accoglienza, sia accoglienza in pronto intervento, sia accoglienza rivolta all'accompagnamento verso l'autonomia. Ecco, l'accoglienza in pronto intervento significa che voi avete una segnalazione di un ragazzino minore che è arrivato in Italia, probabilmente allo sbando, magari sta cercando di raggiungere la Germania, e voi mettete in atto un progetto. È un ragazzino che si presenta alle forze dell'ordine, se da prima erano le forze dell'ordine che pescavano i ragazzini in giro per strada, oramai hanno imparato che vanno, si consegnano alle forze dell'ordine e le forze dell'ordine li accompagnano al pronto intervento del Comune di Milano, che ci chiama per reperire i posti da noi nelle altre strutture, e così ci presentiamo, ci prendiamo il ragazzino e ce lo portiamo a casa. Sin da subito ci occupiamo dei bisogni primari, dello stato di salute, e poi insieme all'assistente sociale, per poi mettersi d'accordo sul piano di intervento nell'immediato. Lavoriamo sempre con loro, anche se sono in pronto intervento, miriamo sempre poi al passaggio successivo verso l'autonomia. Va da sé che i ragazzini in primo intervento, che non, accolti in pronto intervento, che non sanno parlare, che non hanno ancora i documenti, necessita di una presenza educativa molto più importante, più forte rispetto ai ragazzi che sono in accompagnamento all'autonomia. Diciamo, questa è l'unica strada, oppure per esempio una persona, una famiglia può decidere di prendere in affido un ragazzino e succede questa cosa? Ci sono vari progetti che il Comune di Milano insieme ad altri enti fanno per sensibilizzazione della popolazione circa i minori stranieri non accompagnati, e ci sono dei progetti, ci sono delle famiglie che si candidano e ci sono appunto dei ragazzi che seguono questo percorso, vengono presi in affido dalle famiglie. Io ho letto anche di ragazzini di 10-11 anni mandati da soli, insomma, in Europa, e uno si domanda: ma che mamma è, no? Una mamma che lascia andare un ragazzino così? Ci racconti invece qual è la verità, quali sono le storie da cui arrivano questi ragazzi? Ma io credo che tutte le mamme amano i loro figli, ma forse è molto sofferta, credo, questa scelta, e non credo che lo ama di meno perché lo manda via, perché attraverserà, ma forse perché pensa che magari riuscirà a salvarsi, troverà un futuro migliore. Io non credo che non ci sia amore anche dietro questo gesto, che credo che anche a queste mamme costa tanto. Spesso sono stati i genitori a decidere di far partire questi ragazzi, mi spiega Agostino Messina, uno degli educatori di riferimento per questa casa. Allora, quello che penso io è che rispetto alle famiglie di origine comunque hanno una visione rispetto ai figli, rispetto è diversa da noi, non sono italiani, per cui questa cosa qui per loro fa parte della normalità, ma anche i ragazzi la vivono come un passaggio. Per cui è capitato ragazzi del Marocco o egiziani che la mattina si svegliano e dicono: oggi tu devi partire, e questi ragazzi comunque accettano questo aspetto proprio perché vivono l'aspetto di famiglia come una cosa importante. Per cui se i miei genitori mi hanno detto appunto di fare questo passaggio, che curano i genitori, perché poi all'arrivo a Milano eccetera c'è sicuramente un ponte con questa famiglia, con la famiglia che c'è qui, soprattutto di alcune etnie, che possono essere egiziani, che possono essere quelli del Marocco, che possono essere quelli dell'Albania e del Kosovo, perché chiaramente hanno già intrecciato dei rapporti qui e già hanno messo delle basi rispetto a questo. Però conoscendo appunto Milano, che ti dà l'opportunità appunto di emergere in modo positivo, per cui attraverso il lavoro, attraverso l'integrazione, attraverso i documenti, questo è un passaggio che loro, diciamo, usano, utilizzano. Ripeto, noi non dobbiamo vederla dal punto di vista, diciamo, italiano, per cui è chiaro che una famiglia italiana mettere un 14enne sul gommone che arrivi non lo farebbe mai al mondo, sarebbe. Viceversa, leggendo dal punto di vista culturale, dal punto di vista delle loro modalità, questa cosa la possiamo, diciamo accettare e lavorarci, perché noi viviamo con ragazzi del Pakistan che si sono fatti viaggi di 2 anni, arrivano a 16 anni, significa che sono partiti a 14 anni, chi mai manda un ragazzino di 14 anni a farsi 2 anni di viaggio lavorando in Turchia, lavorando in Grecia, facendo la sala a piedi, perché chiaramente per esempio quelli del Pakistan arrivano da Trieste, per cui se la sono fatta a piedi questo passaggio, con tutti i loro vissuti, problematiche e adulti che avranno incontrato, appunto, che sicuramente sì, li hanno aiutati, ma li hanno aiutati per soldi, ecco, per esempio. Oppure, quindi, non leggiamolo dal punto di vista, ripeto, italiano, leggiamolo dal punto di vista del bisogno di questi ragazzi e delle loro famiglie. Il percorso da fare è quello di creare in questi appartamenti delle vere relazioni di amicizia, che siano supporto e possibilità per questi adolescenti che davvero nella vita hanno visto troppo e forse troppo presto. L'altro fenomeno da indagare, se si parla di minori, è poi quello dei non reperibili. Si tratta di ragazzini che sono usciti dai centri rendendosi invisibili, spesso con l'obiettivo di raggiungere parenti in altri paesi europei, mettendosi in condizioni di grave rischio. Continuiamo tra poco, ci fermiamo per qualche istante. Contenti gli insegnanti, pur fra mille preoccupazioni. Bellissimo. Cioè, devo dire, rivederli, ho detto, ah, meno male, allora la scuola ha un senso. Contenti gli studenti, anche se seduti al banco con la mascherina. Sicuramente qualcosa di diverso, ma un'emozione rivedere i miei compagni. Nella didattica a distanza, quello che non ci ha permesso era lo stare insieme fisicamente. Molto più bello, secondo me, ritornare in classe rispetto ovviamente alla didattica a distanza, però, vabbè, è stato appunto necessario. E contenti anche i dirigenti scolastici, alle prese con una sfida senza precedenti. Sì, per me è stato bello rivederli, siamo contenti, perché la scuola senza studenti è una carcassa vuota, è assolutamente abbastanza inutile. Domani il Radio Day, nei GR e nei programmi le voci dalle regioni in cui suonerà la campanella. Una ripartenza con tante incertezze, ma che rappresenta anche un'opportunità per fondare una nuova scuola. Appuntamento domani su Radio 24. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Io mi chiamo Adil, vengo dal Pakistan, ho 18 anni, sono in Italia da quasi 2 anni. Io sto lavorando borsa lavoro, come sto facendo lavoro aiuto cuoco. Senti, anche tu hai fatto tutto il percorso a piedi partendo dal Pakistan? Sì, ho fatto tutto a piedi, a viaggio in piedi. Quanto è durato? Tanto tempo. Da quando io sono partito dal Pakistan, poi sono entrato in Iran, poi Turchia, poi Grecia, poi Albania, poi Montenegro, Croazia, Slovenia, poi in Italia. Prima città si chiama Trieste. E poi sono arrivato qua a Milano. Qual è stato il momento più difficile del viaggio? Non so, un momento in cui hai avuto freddo, un momento in... quali sono state le cose più brutte di questo viaggio? Dormire nella strada. La strada? Sì, questa cosa molto, molto brutta. Dormire per strada? Senza dormire, senza mangiare, senza bere. Tutte le cose difficili quando... Adesso come ti senti? Adesso mi trovo bene, perché adesso ce l'ho tutto quello che mi serve in Italia, documenti, a casa, lavoro, tutto quello che mi serve. Sono contento. Tu quando sei partito perché l'hai deciso tu o i tuoi genitori ti hanno detto vai? No, ho deciso io, no, che io sto andando nell'altro paese per fattura bene. Pensavo io questa cosa. Esiste un'intera generazione di ragazzini che ha lasciato casa ed è partita, affrontando viaggi lunghi anni. Nel tragitto la speranza si è spesso irrigidita e il viaggio si è trasformato anche in violenza subita e detenzione. Viaggi compiuti senza un adulto di riferimento, un fenomeno quasi difficile da afferrare nella sua complessità, i cui numeri sono cresciuti in maniera esponenziale dal 2011, anno delle primavere arabe, sino ad oggi. E più è cresciuto il numero, più si è abbassata l'età. L'anno scorso un migrante su 6 sbarcato sulle nostre coste era un minore solo, e tra loro anche bambini molto piccoli, al di sotto dei 10 anni. Chi sono? Perché partono? Cosa lasciano alle loro spalle? Difficile trovare risposte collettive che rappresentino tutti. Quello di oggi è un piccolo percorso di conoscenza. Sono dei ragazzini che non hanno fatto un tempo a salutare la nonna, piuttosto che perché gli hanno detto la notte, per non scappare, forse per il papà gli ha detto tu domani mattina c'è la nave, parti. E arrivano qua e ti dicono ma io... Qualcuno ti dice ma questa città è troppo grande per me, io te lo dice non subito con l'aiuto di un mediatore, perché spesso vedi la sofferenza negli occhi, vedi la gioia e la tristezza che sono gli occhi quando non riescono a parlare, che esprimono lo stato d'animo attraverso dei disegni. E ragazzi che non hanno fatto in tempo a salutare amici arrivano qua, vedono questa città che è grande a seconda di dove arrivano e ti dicono ma io sono, forse sono un po' scemo rispetto al Dio, non so se ce la farò, questa cosa è troppo grande per me, io non sapevo neanche che dovevo imparare un'altra lingua, ma perché non posso andare al lavoro? Perché dei nostri vicini di casa sono andati a lavorare, ma mica hanno fatto tutte queste scuole che dite voi, perché spesso si trovano i ragazzi tra martello e incudine, perché la famiglia, tu devi andare a lavorare da subito, noi che li trattano da adulti. Loro già nel loro paese all'età di 10 anni stanno già portando a casa uno stipendio, arrivano qua e noi lo trattiamo, facciamo un passo indietro, è minorenne, non può fare determinate cose, esce accompagnato, nei primi giorni esce solo con l'educatore, se ti perdi, arriva da un paese dall'estero, non si perderà. Però c'è tutto il pensiero questo dietro, è un ragazzino, ma ha fatto colazione, ma è uscito di casa senza... E questo è il nostro pensiero, e loro ti dicono ma io voglio solo andare a lavorare, ma perché devo fare tutte queste scuole? E allora con l'assistente sociale parliamo anche con la famiglia, a spiegare anche il tipo di accoglienza che stiamo facendo e che cosa è previsto nel nostro progetto e come intendiamo accogliere questo ragazzino fino ai 18 anni e qual è il progetto, qual è che offriamo e come lo possiamo aiutare, perché non è pensabile che è arrivato ieri, oggi va a lavorare. Luca Scotti ha 25 anni ed è un educatore della comunità Costruire Radici per il Futuro, che gestisce diversi appartamenti abitati da piccoli gruppi di minori. Io respiro tanto la voglia di sentirsi protagonisti, cioè di non essere più un ragazzo disperso, ma di sentirsi qualcuno, e questa è una bella spinta, perché prima di essere minori stranieri non accompagnati, i ragazzi sono degli adolescenti, e in quanto adolescenti hanno questa voglia di incidere nella nostra società, quindi a partire poi chiaramente da delle passioni loro personali, che possono essere chi vuole diventare parrucchiere, chi... vuole diventare, che ne so, venditore, al di fuori chiaramente delle professioni, sentono di voler impegnarsi per trovare un posto che può essere in Italia, che può essere tornare nel loro paese, però ecco, forse questo protagonismo positivo, che non è un egoismo in cui si incentra tutto sulla propria persona, ma un avere delle possibilità, sfruttarle bene, e poi dopo poter dire ok, io ho scelto di fare questo e lo faccio con la passione e l'impegno che ci voglio mettere. Il numero dei minori non accompagnati in Italia varia. Il Ministero del Lavoro censisce ogni anno, mese per mese, il loro arrivo. Attualmente se ne contano oltre 5.000. La provenienza di questi ragazzini varia e segue le vicende interne dei singoli paesi. Ad esempio, mi raccontano gli educatori che nel 2015 vi fu un'ondata di arrivi di ragazzini dall'Egitto, come ci racconta Agostino Messina, uno degli educatori di riferimento per questa casa. Faccio l'educatore all'interno del CIAS. E sono, diciamo, responsabile anche di, come educatore di riferimento di questo appartamento. Per cui tu da quanti anni lavori in questo settore? Io lavoro dal 99. Lavoravo in Martinit, era nato questo servizio. Come è cambiata il flusso, diciamo? Sono aumentati i ragazzi, i minori stranieri non accompagnati che arrivano in Italia rispetto al 99, quando ho iniziato a fare questo lavoro? Allora, sono aumentati e sono anche diversificati, perché allora mi ricordo che l'arrivo dei ragazzi era essenzialmente di ragazzi albanesi e ragazzi marocchini. Viceversa, con gli anni poi si è ampliata anche, diciamo, l'immigrazione, per cui sono aumentati i pakistani, sono aumentati gli egiziani tantissimo, gli afghani, poi negli ultimi anni anche dal Nord Africa. Quelli che appunto arrivano, che noi sappiamo, dalla Libia. Loro arrivano da situazioni diverse e di grandissima difficoltà rispetto ad altri ragazzi. Loro arrivano perché scappano. E oltre a scappare arrivano da situazioni di grande diciamo persecuzione proprio fisiche e psicologiche. Proprio su questo appunto noi agiamo anche sul piano del supporto psicologico, e quindi come dicevo prima entrano in gioco altre organizzazioni, fattori, proprio per aiutare questi ragazzi. Per loro c'è un percorso anche un po' chiaramente più lungo, proprio di sostegno. Come dicevo, c'è questo periodo di accoglienza per capire, tenere in piedi un po' questa sofferenza che hanno, aiutarli e poi capire anche con loro che tipo di percorso riuscire a fare. Mi chiamo Sindret, cognome Kala, vengo da Albania e ho 18 anni. Da quanti anni sei qui in Italia? Qua sono in Italia 2 anni e mezzo. Ti piace il progetto in cui sei, questa casa, vivere con gli altri? Sì, e ormai impariamo come vivere da soli, pulire le case, le cucine e questo. Senti, com'è stato il tuo viaggio? Cioè, come hai fatto? Hai preso il gommone? Come hai fatto? Sono arrivato da Grecia con il gommone grande. E in Grecia sono andato fino a Bari, dopo ho preso il treno, che sono arrivati qui in Milano. Hai avuto paura durante il viaggio? Un po' sì, perché ero da solo e non sapevo dove sto andando. E fino a quando non sono stato dentro in comunità avevo paura. Ma perché sei partito? Cioè, perché una buona vita. I tuoi genitori erano d'accordo? Quando l'ho detto la prima volta, no, perché avevo 15 anni e dopo ho iniziato a continuare a dire ogni volta e mi hanno detto: se vuoi fare, provalo. E ho già fatto. E adesso ti senti con i tuoi genitori? Sì, ormai parlo, cioè ogni volta che mi chiamano loro. Li hai visti o ancora no? No, ancora no. Sì, ma prima mi devo sistemare e dopo devo andare a vederlo. Bello. Un po' sì, perché sono tanti anni, ce non lo vedo, faccio 2 anni un po'. Il mio nome è Alessandro, vengo dall'Albania, ho 17 anni. Quando è che sei arrivato in Italia? Quanti anni avevi? 15 anni, così 15 anni e mezzo. Che lavoro fai qui? Adesso faccio giardiniere, da 2 mesi che ho cominciato. Il progetto che qui vi abbiamo descritto costa circa 60 euro al giorno, consente di integrare persone altrimenti destinate a smarrirsi e dunque, in un modo non tanto difficile da comprendere, consente di tutelare l'intera società. Ci fermiamo qui, potete scriverci a diario@radio24.it. Un saluto da Cristina Carpinelli. So we meet again after several years of separation. Moving on, moving around. Did we spend this time chasing the other's tail? Say, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. I can never belong to you. Oh, whoa, whoa, whoa, whoa. I can never belong. in the ocean on the boat behind. Skifflin' rag, skifflin' rag, shufflin' wall, shufflin' wall. You're the up tiptoe ballerina on the chorus line. Sing oh, oh, oh, oh, oh. I can never belong to you. Oh, oh, oh, oh, oh. I can never belong. Cloud falling down the spring. Sociale. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it.